permettetemi di concludere con una doverosa rettifica. Nel corso di una vecchia trasmissione, domenica 16 gennaio di quest'anno, figuratevi, mi è capitato di citare un trafiletto di Repubblica della settimana precedente, in cui si riferiva di un articolo pubblicato su Jesus, la rivista dei padri Paolini. L'autore, professor Giannino Piana, è teologo, stando al quotidiano romano avrebbe sostenuto che farsi fare un lifting in genere usare la chirurgia plastica in linea di principio del tutto legittimo, ma che il discorso era diverso per l'attrice soubrette, in quanto rifarsi la bocca al seno allo scopo di provocare desideri lussuriosi nel pubblico maschile è una tentazione peccaminosa. La distinzione mi era sembrata singolare, ne avevo tratto spunto per un pezzo dal tono oltre che critico piuttosto sarcastico. Ahimè, gli argomenti che avevo usato in quell'occasione personalmente non mi sembrano decaduti, ma devo ammettere che mai sono stati tanto mal impiegati, perché come ho appreso solo successivamente, quelle affermazioni, ancorché pubblicate da Repubblica tra le canoniche virgolette, non comparivano affatto nell'articolo in questione, in cui non figurava il minimo riferimento ad attrici, soubrette, desideri lussuriosi, tentazioni peccaminose e simili. Ma si parlava del problema del ricorso alla chirurgia estetica, esprimendo con qualche cautela un giudizio complessivamente positivo. Le mie conclusioni e i miei giudizi, quindi, per quello che valevano, per quel che valgono, non riguardavano affatto il professor Piana, e mi dispiace d'averglieli attribuiti. Il fatto che io stesso sia stato tratto in inganno dal trafiletto di Repubblica è una scusante solo fino a un certo punto, perché in questi casi è buona norma, nonché obbligo di legge, controllare direttamente la fonte. Resterebbe da chiedersi perché quel quotidiano abbia riferito dell'opera di un collega in modo così clamorosamente scorretto, ma questo naturalmente è un altro problema. Personalmente non posso dire altro che di aver riferito agli ascoltatori delle cose non vere, e mi dispiace molto.